Viva Voce con Alessandro Milan. Alle 9:07 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. In Italia c'è una guerra sotto traccia di cui si parla sempre troppo poco, che fa una media di 16 morti al giorno. Si tratta degli incidenti stradali. L'Italia, lo sapete, è anche un po' il paese in cui si ragiona a volte sull'onda emotiva, per cui all'indomani di incidenti appare sui giornali l'emergenza alcol, puntualmente un paio di giorni dopo, come oggi, ho letto attentamente i giornali, a parte qualcosa sul Corriere della Sera, puntualmente scompare. È stato così lo scorso weekend, alcuni incidenti gravi legati anche all'uso e all'abuso dell'alcol, ed ecco apparire il concetto di tolleranza zero per chi beve e si mette al volante, chi beve non guida, l'annuncio di una legge più restrittiva che forse arriverà già entro gennaio, in cui si tende ad abbassare il limite consentito per mettersi al volante, da 0,5 microgrammi di etanolo per litro di sangue come è adesso, si vuole abbassare a 0,2 microgrammi, sanzioni anche più dure delle attuali, si punta a sospendere la patente per 6 mesi per chi verrà fermato la prima volta, inasprimento progressivo fino al ritiro della patente. Insomma, tutti uniti contro le stragi del quotidiane. Sulle strade, anche se ci sono già le prime critiche, per esempio ieri Beppe Severnini sul Corriere della Sera, annunci ipocriti era il titolo, penso ci risiamo, scrive Severnini, davanti a un'emergenza l'Italia non aumenta i controlli, inasprisce le sanzioni, l'apparenza è salva, tutto continua come prima, ma anche Libero col solito stile un po' provocatorio, ieri titolava abbassato il tasso di sbronza ma stavolta gli ubriachi non sono al volante, facendo riferimento quasi al fatto che gli ubriachi in questo caso sarebbero i legislatori, insomma in Parlamento, per questa iniziativa. Così come un'altra proposta fa discutere, quella sul veto di vendita di alcol dopo una certa ora, in genere le 2 di notte, soprattutto nei locali pubblici, soprattutto in quei locali come magari le discoteche dove i giovani vanno a ballare, a divertirsi, ma anche ovviamente a bere qualche cocktail. È questa dunque la strada giusta? Ne parliamo di questo tema. Voglio salutare il sottosegretario Carlo Giovanardi, buongiorno e ben ritrovato. Buon. Sottosegretario. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega famiglia e droga, si occupa molto spesso di questo tema. Saluto Antonio Flamini, vicepresidente dell'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e Spettacolo. Benvenuto Flamini. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. E poi voglio salutare una collega giornalista che ha scritto un libro molto interessante edito da Chiare Lettere, si intitola Strage Continua, legato ovviamente a questo tema. Elena Valdini, buongiorno Elena, benvenuta. Buongiorno. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666, per contrastare le stragi sulle strade legate soprattutto spesso all'abuso di alcol. Si stima che un incidente su due in alcuni casi è causato, in chi è coinvolto, insomma abusato di alcol, si promette tolleranza zero. Io partirei proprio da Elena Valdini che ha scritto questo libro, Strage Continua. Perché l'hai fatto, Elena? Diverse. La prima è quella personale. Anch'io, come molti altri ragazzi, ho 27 anni, ho perso degli amici sulla strada e mi sono posta molte domande. Queste domande sono anche diventate in parte il mio mestiere e quindi poi anche un libro. Avevo 16 anni quando è successo e le domande sono molte e le risposte sostanzialmente molte forse arrivano, è vero, come dicevate voi prima, sull'onda dell'emotività. E poi il 30 di ottobre del 2007 ho partecipato a Roma alla manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, Giustizia per le Vittime, e quel giorno mi sono resa conto di quanto il nostro paese abbia in parte abbia trascurato il tema della sicurezza stradale, l'assistenza ai familiari delle vittime, e perché di fatto su questo argomento cola e cala un silenzio di fatto, e questo è incomprensibile. Lo accennavi tu molto bene all'inizio, inizialmente i giornali hanno seguito l'argomento nelle prime 24 ore e poi sembra che scompaia nuovamente. Ancora oggi manca un bollettino quotidiano dei caduti, non c'è nessun organo di informazione e decida che nel suo giornale, se il giornale radiogiornale, comunica quante sono le vittime ogni giorno sulla strada. E tra l'altro tu hai fatto notare nel libro che spesso viene considerata un fatto naturale, cioè come può capitare la morte negli incidenti stradali, e di fatto invece non è così, voglio dire, è una cosa che si può contrastare fattivamente. Ma guarda, l'Unione Europea stessa dice che ora nel programma d'azione europeo per la sicurezza stradale, quello che prevede il dimezzamento delle vittime, che chiede il dimezzamento delle vittime entro il 2010, dice che ora di smettere di considerare le morti e le ferite da traffico come eventi inevitabili, perché tali eventi sono prevenibili. Purtroppo c'è un radicato sentire comune che fa capo proprio a questa frase: è stato un incidente, è stata una fatalità, come se fossero morti ineludibili, come se fosse un evento che non si riesce ad arginare e prevenire. Non è così. E perché soprattutto questo sentire comune trova così tanto favore? Perché bene o male in strada ci siamo tutti siamo coinvolti in strada, come pedoni, ciclisti, ciclomotoristi, automobilisti, e sembra che tutti quanti noi abbiamo la nostra verità in tasca, tra virgolette, perché sappiamo guidare, sappiamo reggere l'alcol, abbiamo i riflessi pronti. Ecco, purtroppo ci sono tantissimi miti che andrebbero sfatati con precisione, sobrietà e serietà, con un intervento costante sia per quanto riguarda l'informazione che la prevenzione. E questo poi si riversa anche sulla cultura, se vogliamo, dello sballo, se si vuole parlare delle strade. Sicuramente lo faremo, insomma, Elena, perché questo è uno dei temi. Tra l'altro, appunto, abbiamo il rappresentante dell'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e Spettacolo, il sottosegretario Giovanardi, che su un tema specifico, soprattutto quello del divieto di vendita di alcol oltre le 2 di notte, sicuramente la pensano in maniera opposta. Io però partirei dalla questione della tolleranza zero. Sottosegretario Giovanardi, devo dire che stanno affiorando un po' più le critiche dopo la prima ondata, anche questa emotiva, a dire sì, è giusto, abbassiamo i limiti, chi beve non deve guidare, su questo siamo tutti d'accordo, ma è davvero questa la strada, una delle strade, da 0,5 a 0,2 si deve abbassare? Ieri Libero diceva basta un babà a rum e non si può più guidare. È questa davvero la strada per contrastare il fenomeno? Beh, intanto inquadriamo il fenomeno: 250.000 morti sul colpo in incidenti in Italia negli ultimi 35 anni, 250.000, milioni di feriti, poi punta di mortalità giovanile, strage del sabato sera, 10.000 ragazzi morti negli ultimi 18 anni in determinate ore della notte, concentrate il venerdì e il sabato notte. Quindi siamo a livelli di perdite di una grande guerra, con drammi familiari, sociali, economici giganteschi per il paese. Quindi questo è il fronte di combattimento. Che cosa fare? Ormai il nemico è stato inquadrato, quello che ci porta fuori controllo nel numero degli incidenti e negli incidenti catastrofici, qualche volta l'alcol, qualche volta la droga da non sottovalutare e molte volte il colpo di sonno, la stanchezza, la carenza di sonno. Per esempio, strage del sabato sera, ormai è evidente che nelle ore dell'alba anche uno che non ha bevuto non è in grado di guidare correttamente, perché il colpo di sonno produce quegli incidenti catastrofici di cui leggiamo il lunedì, con i 3, 4, 5, 6 morti, l'ultimo, tipico, no? Non ho visto 30 persone, non le ho viste. Certo, se ha avuto il colpo di sonno, quel giovane di 20 anni, quella comitiva proprio non l'ha vista. No, non c'è però mai segno di frenata. Su questo allora non si potrà vietare di viaggiare di notte o andare a divertirsi, questo no. Però il nostro ordinamento proibisce già ai camionisti, proibisce già chi guida i pullman di guidare oltre certe ore, deve guidare riposato, deve guidare in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Ecco, ma questa allora proposta concreta, poi veniamo alla questione del divieto della vendita dell'alcol, ma questa dello 0502 è uno strumento. Però le chiedo cosa ne pensa. Questa è una proposta che viene dalla Commissione. Io insisto nel dire che ci vuole la cultura del limite. Il limite vuol dire che ci sono determinati orari, determinate condizioni nelle quali si può anche evitare il circuito della trasgressione dello sballo e quindi della vendita di alcolici. Quando soprattutto c'è una mortalità 3 volte superiore a quella ordinaria, che sono quelle famose ore della notte in cui ci sono gli incidenti catastrofici, i controlli sono stati aumentati a dismisura, ma i controlli che risultato danno? Verona, gli 80 controllati di quella notte, il 43% era o drogato o ubriaco o ambedue le cose. Allora, io mi rendo conto della difficoltà di un paese in cui poi si lancia l'idea della tolleranza zero, ma non si è ancora riusciti a porre qualche limite preventivo, come quello di abbassare i fattori di rischio per gli incidenti. Però, la mia perplessità su 0,2, che lo dico subito, è che innanzitutto più che 0,2 bisogna fare 0, perché se si vuole dire qualunque tipo di alcol che si è bevuto comporti il ritiro della patente, 0,2 è una trappola micidiale. Perché è sostanzialmente su questo dunque lei è un po' critico, voglio dire, mettere 0,2 che senso ha effettivamente? No, o si dice chiunque viene fermato che ha ingerito una minima quantità di alcol che si ritira la patente, se non tanto vale lasciare lo 0,5 di oggi. Ma le dico, io sono più propenso, e spero che il disegno di legge sulla sicurezza passi, ad estendere, perché il divieto per le discoteche esiste già. Il problema è che quando vengono chiusi i locali, i giudici di pace o i tribunali sospendono le sanzioni. Non le applicano, le dico perché, sì, perché è giusto che i lettori lo sappiano. Perché dicono, la chiusura del locale porta un danno economico al gestore e ai dipendenti. Su questo però, sottosegretario, perché sennò mette troppa carne al fuoco, siccome ci arriva la questione del divieto di vendita di alcol, c'è appunto Flamini qua che le risponderà. Però prima fatemi salutare, visto che ci ha aggiunto il professor Michele Ainis, che insegna diritto pubblico a Roma 3, editorialista anche della Stampa. Buongiorno professore. Buongiorno. Prima di andare sulla questione divieto alcol, restiamo prima sul punto. Giovanardi ci ha detto effettivamente da 0,5 a 0,2 c'è qualcosa di problematico, cioè o si dice a questo punto 0, mettere 0,2 è una trappola, l'ha definita, nel senso che, voglio dire, nell'editoriale che lei ieri ha scritto sulla Stampa, il titolo è emblematico, l'amaro fuori legge, l'amaro, cioè l'amaro che si beve a fine pasto, qualcuno lo beve. Perché lei critica molto questo voler normare continuamente sull'onda forse emotiva, professor Ainis, mettendo a 0,2? Ma intanto, dal punto di vista dell'eccesso di normazione, che è un vecchio male che ci affligge, è un po' come si dice, date a un bambino un martello e il bambino penserà che tutto il mondo ha bisogno di essere preso a martellate. Allora, i nostri legislatori, di destra, di sinistra, di sopra e di sotto, questo vizietto ce l'hanno, cioè di pensare di risolvere i problemi aggiungendo una norma o aggiungendo una stretta punitiva, quando una norma in più molte volte determina un problema in più. In questo caso determina una soglia di incertezza sul confine tra illecito e l'illecito, che poi riguarda non tanto l'alcolizzato cronico o l'incosciente che si mette al volante dopo essersi bevuto una bottiglia di whisky, ma le persone qualunque che magari appunto pasteggiano l'acqua minerale, chiudono la cena con un goccio d'amaro e si trovano fuori legge a loro senza avere un comportamento effettivamente pericoloso, anche perché quando la soglia di tolleranza diventa così ridicolmente bassa, e allora ogni incidente che viene determinato sulle strade, io poi faccio la misura del tasso alcolico, troverò che la persona che guidava era oltre quella soglia e siamo tutti ubriachi. È come quando c'è il problema dell'inquinamento atmosferico, e lo abbiamo fatto in passato, e lo risolvo in questo caso alzando la soglia di inquinamento, quindi non c'è più l'inquinamento. Bisogna insomma maneggiare con molta cautela queste, insomma, la vede come una iperattività stile gazzetta ufficiale, come lei l'ha definito, cercare con la gazzetta ufficiale di creare una cultura. Non è quella la strada, secondo lei, quella delle norme, voglio dire, già ne abbiamo tante peraltro. Io vorrei, sulla questione, visto che così la introduciamo, divieto di alcol, e poi voglio coinvolgere su questo Flamini. Il divieto di alcol, lei l'ha già detto, sottosegretario, quello, il divieto di vendita oltre le due nei locali pubblici, c'è tuttora? Perché io non l'ho bene capito, è in vigore? No, è in vigore solo per le discoteche. È in vigore solo per le discoteche. Ma non per i pub, i bar, i chioschi. E la mia proposta, che è in Parlamento, è di estendere questo divieto, che è solo per le discoteche, anche agli altri locali, perché è inutile che uno alle due di notte non possa più bere in discoteca, poi si sposta al bar nella strada accanto e può continuare a bere. Quindi il divieto di vendita lei lo vorrebbe in tutti i locali pubblici oltre le due di notte. Dopo le due di notte. il divieto di somministrazione e il divieto di vendere le bottiglie intere dalle 22 di sera alle 6 del mattino. Questo dovunque, anche questo, che ne so, la vendita di bottiglie ovunque. Allora, Antonio Flamini, visto, innanzitutto facciamo le faccio fare un passo indietro, ma mi consenta, breve, so che voi siete abbastanza, ho letto, d'accordo su invece la tolleranza zero, portare addirittura a zero percentuale di alcol, perché voi siete per la teoria del guidatore, come si definisce esattamente, Flamini? Guidatore designato. Il guidatore designato, cioè uno non beve, tutti gli altri, quelli che porta gli amici, le amiche, insomma, possono bere, ma uno no, rimane sobrio e quindi porta poi a casa tutti. Però su questo divieto invece siete assolutamente contrari. Ci spieghi perché? Sì, guardi, dunque, allora, giustamente in questo senso noi siamo d'accordo con quello che dice il sottosegretario Giovanardi. Effettivamente abbassare il limite a 0,2 crea più confusione che ed equivoci piuttosto che soluzione del problema. A questo punto, come noi abbiamo sempre detto, chi guida non deve bere, cioè la tolleranza deve essere zero, il tasso alcolico per chi guida deve essere zero. Rimane il fatto che io sono d'accordo con quello che ha scritto Severini e quello che ha detto il professore che ha parlato prima di me. Troppe leggi non portano alla soluzione del problema, troppa repressione non porta alla soluzione del problema. Sicuramente, come dice Severini, più controlli sono la vera soluzione del problema. Detto questo, poi passiamo all'argomento che vi fa più dibattere, diciamo, col sottosegretario Giovanardi. Allora, noi la riteniamo questa una normativa sbagliata e quindi pensiamo che una legge sbagliata non va allargata a tutti, ma va tolta. Il divieto, come si vede tutti i giorni leggendo i giornali, dalla quantità di incidenti che ci sono, non ha portato nessun tipo di miglioramento della situazione. Noi riteniamo addirittura che l'abbia peggiorata, perché ha incrementato il consumo dell'alcol soprattutto nei giovani, ha incrementato quelli che sono i trattenimenti irregolari ed abusivi, perché la propensione a consumare alcol da parte dei giovani non è diminuita, lo vanno a cercare da altre parti dove lo possono trovare tranquillamente. Beh, però perché comprano... lei dice addirittura la fa aumentare, semmai lei può dire non è diminuita, la trovano per altri canali, ma addirittura aumentare? La fa aumentare, le spiego perché. Perché in prossimità dell'orario di divieto aumenta si beve di più in un tempo più ridotto, quindi con una maggiore pericolosità, diciamo si approvvigionano soprattutto di bottiglie. Io in questo senso sono d'accordo sul divieto di vendita, che è una cosa diversa dalla somministrazione. Sì. Qui ci sono degli equivoci nella normativa italiana, per esempio i pubblici esercizi, le discoteche, ma tutti i pubblici esercizi hanno un divieto di somministrazione ai minori di 16 anni, mentre invece è possibile vendere ai minori di 16 anni nei supermercati, in tutti gli altri negozi dove si vendono bottiglie intere. Questo è una grossa contraddizione, anche molto pericolosa, che favorisce quel fenomeno che in Spagna viene chiamato il bottiglion, ovvero sia i giovanissimi si approvvigionano di bottiglie e poi se le vanno a bere e si vanno ad ubriacare dove gli è consentito. Nei locali come le discoteche bere è molto più costoso che da altre parti, è molto più controllato che da altre parti. Per questo io dico che questa è una legge che sicuramente non serve, che è sbagliata, sì. Tant'è vero che la scorsa legislatura in finale la stava abrogando, la ed stava è per abrogando, questo che lei ha il dubbio se sia ancora in vigore o meno. Perché hanno tutti detto che era sbagliata. Sottosegretario Giovanardi, vuole replicare sul punto? Voglio dire, effettivamente... io la vedo un po', voglio fare il provocatore, allora vietiamo totalmente, facciamo il proibizionismo, andiamo al divieto di vendita dell'alcol, cioè io me la posso procurare come voglio l'alcol, non tra le 2 e le 6, lo faccio. Faccio il provocatore anch'io. Allora, in autostrada, dove non si possono bere superalcolici, reintroduciamo per i camionisti il diritto di fermarsi gli autogrill, di bere tutto l'alcol che vogliono e poi di ripartire, o no? Io dico no. Perché giustamente si dice, come tu sei un camionista, sei in autostrada, negli autogrill non permette agli automobilisti di fermarsi, di bere e di ripartire. Sì, ma mettendo un divieto dalle 2 alle 6, crede che non riesca... Ma negli Stati Uniti è dalle 21 in avanti. Ma sì, ma sono d'accordo, ma lo so. Perché si ritiene che bere, io sono d'accordo col professore, un conto è la fisiologia, un conto è l'eccesso, che è collegato a determinate situazioni, soprattutto delle notti dell'alba, dove alcol, più droga, più stanchezza, più trasgressione, più sballo, provocano le famose stragi del sabato sera. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di giovani morti. Che ci fanno alle 5 del mattino questi giovani in macchina, in condizioni da non poter guidare, di non essere in grado di guidare, di uccidere se stessi, i loro amici? Ma lei crede, innocenti? Lei crede che togliendo la possibilità di vendere dalle 2 alle 6... Attenuando i fattori di rischio... Si attenuano i rischi. Ma è evidente che si attenuano i fattori di rischio. E quelle migliaia, decine di migliaia di auto che girano da un locale all'altro, da una località all'altra, fanno centinaia di chilometri fino alle 2, alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, ci sono anche locali che aprono alle 7 del mattino. Sì. E quindi si trovano, basta chiedere alla polizia stradale, perché la via non è solo mia, tutti quelli che lavorano attorno a questo settore, che non siano naturalmente i gestori dei locali, che hanno i loro interessi economici, dalla polizia stradale, agli amici della polizia stradale, alle associazioni delle vittime della strada, sono tutti assolutamente d'accordo, perché sanno benissimo che cosa succede dalle 2 alle 6 del mattino, quando la percentuale delle persone che guidano in quella maniera, anche il guidatore designato, è designato ad avere incidenti. Che quando alle 5 del mattino uno piglia tre amici dopo una notte passata in quelle condizioni, che gli dormono in macchina e deve fare 100 chilometri, il colpo di sonno. Ma cosa dobbiamo fare, sottosegretario? Cioè, stiamo tutti a casa? Attenuare i fattori di rischio. Se li attenuano negli Stati Uniti e dicono le 21 di sera nei ristoranti non si beve più, potremmo alle 2 del mattino in Italia dire davanti a questa strage continua che uno a casa sua può bere, ma nel circuito dei locali pubblici si può evitare la sua posizione è chiara. I locali per i pesci di alcol. Due ascoltatori, l'800 24 00 24. Carlo da Lucca, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io faccio il rappresentante, spesso sono per strada. E vorrei dire che spesso e volentieri si confonde anche la problematica delle persone che guidano in stato d'ebbrezza con le problematiche delle strade. Abbiamo strade veramente molto pericolose. In Spagna, ad esempio, durante la notte, se uno vuole bere, comunque ai mezzi pubblici, che in Italia non ci sono. Sì, le strade è vero, sono pericolose, però Carlo guardi, sì. Perché se questo la porta poi a dire che quindi il problema ma io voglio dire un'altra cosa. Cioè il problema dell'alcol non sminuiamolo dicendo che sì. Le strade, che sono effettivamente spesso pessime, sono un altro problema. Però il problema... La soluzione, mi deve scusare, sì, dovrebbe essere anche inserire degli alcol test all'interno delle auto, senza i quali l'auto non parte. In questo modo è come se ci fossero 56 milioni di controlli, visto che sulla strada non possono essere fatti tanti controlli, e non mi sembra giusto criminalizzare chi beve 0,6, perché ho dei colleghi che rischiano anche il posto di lavoro per una serata passata con la moglie e con i figli. Mettere magari un alcol test sull'auto in modo tale che non parta potrebbe essere una soluzione. €20 È una cosa che effettivamente di tanto in tanto torna. Poi insomma bisognerebbe fare tutto anche il discorso con i produttori delle auto, ovviamente. Grazie Carlo, andiamo a Verona da Alberto. Alberto, buongiorno. Sono stato un po' anticipato dal mio collega, anch'io sono sempre in giro. Volevo fare una domanda. Se metà delle persone che fanno o che provocano incidenti sono sotto l'effetto di droga o di alcol, vuol dire che c'è un'altra metà che non sa guidare, primo. Seconda cosa, questa interpretazione statistica è un po'... Ma comunque questa è un po' veleitaria, però... la statistica non è che si può dire le cose così. Comunque va avanti, Alberto. Seconda cosa, le strade pericolose, sono tutte pericolose e basta andare piano e non diventano più pericolose. Il discorso di prima della gente che non sa guidare è che guida in maniera pericolosa anche alle 6 di mattina. Stamattina stavo andando a Milano, c'era gente che zigzagava, ma non perché per ubriachezza, ma per fare dei sorpassi a destra e a sinistra. Sì. Poi gli incidenti succedono, per questo che dico che vuol dire che c'è gente che non sa guidare. Terza cosa, bisogna mettere in condizioni i giovani di potersi divertire, quindi giustamente di andare in discoteca, facoltativamente di bere anche un bicchiere in più e di avere anche i mezzi per tornare a casa. I mezzi in Italia non li abbiamo per tornare a casa. Questo è un altro... questo è il punto fondamentale. Lo dica velocemente. La gente non può andare neanche... Allora, io abito a Verona, ormai da 10 anni è praticamente proibitivo andare sul lago con una ragazza a mangiare, per dire, il pesce, e bere un bicchiere di vino, perché tornando indietro ci sono 12 controlli, magari da, faccio anche, dico anche i punti, da Bardolino andare Va bene, bene. Però dopo andare fino a Verona non ce ne sono più. Guardi, io le dico bene, cioè bene dove ci sono e male dove non ci sono. A questo proposito, siccome lo devo liberare, sottosegretario Giovanardi, faccio ancora una domanda, poi dopo continuo ovviamente col professor Ainis, con Flamini e Elena Valdini. Sottosegretario, i controlli, visto che è il grande tema, non mi risponda come si dice sempre, stanno aumentando, è vero, stanno aumentando, ma siamo in gravissimo ritardo perché non ci saranno i soldi, va bene, rispetto agli altri paesi come la Francia. Allora io, provocazione per provocazione, visto che un po' così lo stiamo facendo, dico troviamo subito dei soldi, non so, tagliamo due province, tagliamo del 10% gli stipendi dei parlamentari e compriamo gli etilometri. Allora, mi scusi, due cose. Primo, io davanti a una situazione che vede tanti giovani italiani morire in Italia, quanti soldati americani in Iraq, a noi il venerdì e il sabato notte ci costa lo stesso numero di ragazzi morti dell'esercito americano nella guerra in Iraq. Davanti a questa cosa, il dire di no a tutto e di non prendere nessun provvedimento, provando a vedere se si attenua questa mortalità, mi sembra una cosa sbagliatissima, perché le dimensioni del fenomeno sono agghiaccianti. Seconda cosa, i controlli si fanno, anche il modello l'abbiamo fatto a Verona, l'abbiamo proposto, ma l'abbiamo non sono abbastanza. Quelli immobili, quando quel signore dice io mi incappo, lui incappa in pattuglie mobili, con strutture mobili, che gli fanno subito il test dell'alcol, il test della droga. Ma infatti io dico bene, insomma, è giusto. Ma, non è di allora, ma sono pochi, sono pochi. Sindaci, non sono pochi, sono perché ci sono già le strutture, ci sono gli uomini, ci vuole solo la volontà locale, come ha fatto a Verona, di mettere d'accordo Stato, Regione, Comune, volontariato e fare quello che stanno già facendo in tante città d'Italia. Non è una questione del governo, è una questione che localmente basta un coordinamento anche con i mezzi esistenti per rendere più efficace, specialmente nelle ore notturne, il controllo, che però sta aumentando. Ma se non si fa anche della prevenzione, il discorso del SIL che dice noi diamo da bere ovunque, sempre, alle 2, 3, alle 4, alle 5, alle 6, poi siano polizia e carabinieri a dover controllare, non è un discorso giusto. Ci vuole la repressione, ma ci vuole anche un minimo di prevenzione, specialmente negli orari in cui si sa che triplica la mortalità per le cause che dicevo prima. E allora il SILB replichi su questo, Flamini, cioè c'è una cultura di dire si beva, poi allora, i controlli spettano ad altri. Intanto dalle due telefonate è emerso quello che è un po' l'equivoco forse che è stato introdotto fin dall'inizio, e cioè sembra che la maggior parte degli incidenti vengano causati da abuso di alcol. Non è così. Assolutamente non è così, non che questo non sia un problema grave, ma non è così. All'ultimo SIS, Salute Internazionale della Sicurezza Stradale, dove l'Istat ha presentato i dati del 2007, gli incidenti che sono causati da uno stato psicofisico alterato del conducente sono del 3,8%, il 45-46% dipendono invece dai comportamenti errati alla guida. Quindi questo vuol dire che questo problema va affrontato in un modo corretto. La sicurezza stradale, se si vuole arrivare ad una soluzione del problema, va affrontata in un modo corretto. Questo non è un modo corretto di affrontare il problema puntando sempre il dito su quello che fa più sensazione, sugli incidenti che fanno più sensazione, ma bisogna andare a vedere che cosa succede veramente sulle strade. Per esempio, l'orario in cui ci sono più incidenti stradali sono le ore 18 del pomeriggio. Che cosa vuol dire? Questo è un problema che va affrontato a 360 gradi, non come lo affronta il sottosegretario Giovanardi o molto spesso scrivono i giornali puntando il dito solamente su questo aspetto del problema, ed è per questo che in molti dicono che in realtà non serve a molto diminuire il tasso di alcolemia nel sangue oppure introdurre delle normative repressive. È vero, mancano i controlli mancano tutto il giorno. Io personalmente, che lavoro nelle ore notturne, ho sempre lavorato nelle ore notturne da almeno più di 20 anni, non ho mai avuto un controllo da parte della polizia stradale o dei carabinieri di tasso alcolemico, ma come me credo la maggior parte degli italiani. Le aspettative di un controllo sono ridottissime. Ma su questo siamo d'accordo. La Francia, invece ci sono una quantità di controlli enormi e c'è un abbattimento del numero degli incidenti. Su questo siamo d'accordo, devo dire oggi il sottosegretario Mantovano risponde a Severnini sul Corriere della Sera dicendo ne stiamo facendo, i controlli sono diventati 1.158.157, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2007, staranno aumentando, ma bisogna, perché questa è l'unica strada, farne di più, ma quando vuol dire di più vuol dire fare come la Francia, che sono 5-6 volte in più rispetto all'Italia. Torno al professor Ainis e da Elena Valdini e gli ascoltatori. Professor Ainis, lei ha detto un'altra idea addirittura bislacca, è quella di pensare di incrudelire le sanzioni per i trentenni lasciando indenni gli ottantenni, perché questo c'è nella proposta, cioè forse fare sanzioni più gravi per i giovani che effettivamente però devo dire bevono forse un po' di più rispetto agli ottantenni, però ci spieghi perché questa sua posizione? Perché la prontezza di riflessi di una persona che è avanti con gli anni è ovviamente più, diciamo, minore rispetto a quella di un giovane. Poi è vero che i giovani bevono di più, è vero che c'è questo fenomeno delle stragi del sabato sera che va certamente combattuto, però nelle cose del diritto, così come nelle cose della vita, il confine tra il bene e il male, insomma, è una questione di misura. Cioè, se io vado in una spiaggia e prendo un granello di sabbia e me lo metto in tasca, non mi sono occupato di suolo pubblico. Se ci vado con un camion, allora sì. Qui il rischio è quello che sotto così le migliori intenzioni di proteggerci da parte delle autorità pubbliche e anche di emanare delle norme con un valore pedagogico, alla fine si arrivi a un sequestro del corpo, alla un'identità dello Stato come Stato balia che ci tratta come dei bambini, che non questo certamente non può essere accettato. Claudio da Roma, un ascoltatore, buongiorno. Buongiorno a lei, sto ascoltando attentamente la discussione e anche gli interventi dei vostri tecnici, degli ospiti. Io sono un istruttore di polizia municipale, quindi un operatore di polizia locale a Roma, e diciamo volevo ricondurre l'attenzione non tanto sull'inasprimento delle norme che negli ultimi anni sono state molto inasprite, quanto poi sulla loro concreta applicazione, ma soprattutto sulla concreta applicazione da parte poi di chi le deve far applicare, quindi dagli organi di polizia. E in particolare volevo appunto porre l'attenzione sul fatto che il codice della strada all'articolo 208 prevede la possibilità per i comuni di destinare parte dei proventi contravvenzionali, quindi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'acquisto delle apparecchiature volte anche alla prevenzione stradale. Viene però fatto? Questo, no, a Roma questo non viene fatto. Viene fatto in pochissimi comuni italiani. E Roma, come altre grandi città italiane, nelle città, nei centri urbani, proprio leggendo le statistiche dell'incidentalità, anche mortale, i maggiori incidenti, diciamo, avvengono proprio nei centri urbani. Certo. E la polizia locale, anche numericamente rispetto anche a altre forze di polizia, avrebbe di più l'obbligo e il dovere, diciamo, di concorrere a questa forma di prevenzione, però questo non è non viene fatto. Guardi, anche per la mancanza di mezzi. Lei mi dà lo spunto per tornare subito dopo il traffico da Elena Valdini, che anche di questo si è occupata nel suo libro, cioè questo di reinvestire i soldi, i proventi delle multe in sicurezza. Elena Valdini, che come detto ha scritto il libro Strage Continua, c'è questo viene rispettata questa norma del codice della strada che spiega precisamente, insomma, che i soldi delle multe devono essere investiti in sicurezza stradale, come ci diceva il nostro ascoltatore che insomma fa anche questo lavoro e dice non avviene a Roma, per esempio. Elena. Allora, mi sono fatta anch'io questa domanda, giornalista chiaramente, e la risposta che ho trovato come controllo e verifica introdotta nel 2008 è questa. La Corte dei Conti, nel questionario che viene inviato a ciascun comune, insomma in merito ai vari bilanci da poi dopo dichiarare e verificare, chiede subito nella seconda pagina di indicare precisamente quanti sono stati i proventi delle multe e quanto, quindi il 50% deve essere investito secondo l'articolo 208, è stato reinvestito, quindi come, indicando le voci specifiche, in sicurezza stradale. Questo è un modo per blindare, tra virgolette, le risposte, quindi per avere delle indicazioni chiare. Vedremo sulla base di queste nuove indicazioni quale sarà la risposta. Il concetto dei finanziamenti è fondamentale e non può venir meno in un discorso organico. Col decreto fiscale, quello sul taglio dell'ICI per intenderci, sono stati dimezzati i fondi al Piano Nazionale di Sicurezza Stradale. Ora, ci sono delle cose che davvero non riesco a capire. Non riesco a capire perché i controlli in Italia, è vero, stanno aumentando, ma confronto a una Francia che ne fa 5 sì, milioni, infatti, sono sempre comunque pochissimi. Non riesco a capire perché non si riesce a far passare il concetto che chi guida quella sera non deve bere, e non riesco nemmeno a capire perché continuiamo a disquisire delle soglie di punibilità, di sanzioni, lo 0,2, 0,5, senza considerare che in assenza di controlli, qualora ci fosse la tolleranza zero e il limite zero, in assenza di controlli, chi vuole bere, beve un bicchiere quanto una bottiglia. Il problema dell'alcol incide, è molto importante, ma non è il nodo centrale. Noi abbiamo questa percezione del nodo centrale, il tema dell'alcol, perché di questo soprattutto si parla. Il problema fondamentale è la mancanza di senso civico, la mancanza di rispetto delle regole. Gli scontri stradali vengono commessi quotidianamente dai cittadini in Italia per alta velocità, soprattutto nei centri abitati. La manutenzione delle strade, anche questo dipende da quanto i comuni reinvestono. Sempre dalle multe. Ma ti chiedo, per esempio, tu hai ovviamente incontrato e hai raccontato anche le storie ovviamente dolorose di molte persone che hanno perso dei familiari in incidenti stradali, anche legati a queste problematiche. Che cosa dicono mediamente loro, appunto, di questo dibattito che c'è in Italia? Cioè, constatano che c'è una volontà concreta poi di risolvere il problema? Oppure, ad esempio, discussioni come queste 0502 lasciano un po' il tempo che trovano? No, guarda, bisogna confrontarsi, mettersi nei panni di un amico, di un familiare, di un fratello che ha perso un familiare sulla strada. Perché noi ci concentriamo sullo 0502 e ci dimentichiamo, e proprio non se ne parla assolutamente, di ciò che manca ai familiari delle vittime. La manifestazione a cui accennavo prima, Giustizia per le Vittime, si concentrava nel chiedere quello che ancora nei tribunali manca. Anche nell'ambito del procedimento penale la vittima non ha le stesse garanzie dell'imputato. Questo per essere rappresentato, intendiamoci, perché è il pubblico ministero che parla a nome del familiare o della vittima nell'ambito del procedimento penale. Con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, questa diseguaglianza, chiamiamola, potrebbe essere raggiunta in modo diverso, potrebbe essere annullata come diseguaglianza. Un'altra cosa fondamentale che sempre ci dimentichiamo e che in Europa invece esiste sono i centri di assistenza per le vittime. Chi perde un familiare sulla strada ha bisogno di consulenza legale e psicologica immediata. Noi non possiamo pretendere che le persone siano preparate da un punto di vista psicologico come reazione al dolore, al di là del fatto che il dolore comunque è condizionato la cultura del dolore è condizionata dalla storia di ciascuno di noi. E a questo dobbiamo aggiungere anche che queste persone hanno davvero bisogno di assistenza legale. Quanti familiari di vittime si sono sentiti di rispondere da pubblici ministeri: il morto è il morto, diamo un aiuto al vivo. Davvero, io da un lato, anche all'interno delle ricerche che ho fatto, ho provato a accorciare le distanze, dicendo: se non riesco a prenderti sulla logica, sulle regole, sul senso civico, provo ad avvicinarti a questo argomento sull'onda anche dell'emotività personale. La si vede questa sofferenza. Come possiamo continuare a pensare che sia una cosa che riguarda sempre gli altri e mai noi? Diamo un ascoltatore, Lorenzo da Genova, buongiorno. Buongiorno, sono Lorenzo. Senti, sì. Io sono un piccolo produttore di cuori e potrei essere di parte, quindi volevo semplicemente Perché? Me lo spieghi, perché potrebbe essere di parte? Voglio dire, banalmente lei dice produce liquori. Dei provvedimenti, ma nessuno... che tendono ad abbassare il livello di tasso alcolico nel sangue, possono anche, voglio dire, impedire il consumo di determinati alcolici e quindi provocare un certo danno. Ma se non sono associati con la guida, no, voglio dire, molto banalmente mi verrebbe no, esattamente, no. Però il discorso è questo. Io ho anni, quando avevo 20, 25, 30 anni, uscivo, mi divertivo, bevevo come tutti i miei amici. I miei genitori lo stesso, sono sempre divertito, ma sempre sbevacchiato, ma nessuno ha mai travolto persone, fatto di incidenti, ammazzato ciclisti e scappato. Cioè, secondo me c'è da valutare anche un tipo di educazione civile, educazione stradale che manca sicuramente nel nostro però, paese. Però, caro Lorenzo, mi scusi, cioè non è mai successo... Cosa, ai nostri tempi non esistevano l'ecstasy, la cocaina che adesso i ragazzini fanno che costa due soldi. Va bene, però io non vorrei che così... Non c'erano questi mix terrificanti che insieme all'alcol... Sì, però Lorenzo sì. Mi scusi, lei da giovane dice ho sempre sbevacchiato... Voglio dire, ma spero... Cioè, se lei mi sta dicendo che le è capitato di guidare poi dopo aver sbevacchiato e non è mai successo niente, è stato un gran fortunato, voglio dire. Non è che mi può teorizzare Non è che... Io sono una persona molto prudente, sono in grado e che di c'entra? No, può guidare da ubriaco? Insomma. No, guidare con i riflessi però attenzione, con i riflessi allentati può guidare? No, voglio dire, non sarà mai capitato di incrociare una bicicletta che passava in quel momento, i suoi riflessi erano allentati, fortunatamente, voglio dire. No, ma io le sto spiegando che sicuramente oltre al fatto del bere, quello che sta succedendo al giorno d'oggi è anche dovuto, secondo me, in gran parte a un mix di altre cose che i giovani fanno uso. Ma certo, però c'è la droga, c'è le strade, ci sono più macchine, c'è più traffico, però voglio dire, capisce che così si rischia di teorizzare che comunque le è capitato di bere, però basta stare attenti e concentrati. No, questo è un discorso, Lorenzo, pericoloso secondo me. Professor Ainis vuole... Non so se vuole replicare lei all'ascoltatore Lorenzo, però la voglio anche stimolare su quello che lei sempre ha scritto, che poi Elena Valdini ci faceva anche intuire, che poi il vero dramma di tutto, a parte i controlli che mancano, è anche la mancanza di una certezza della pena. Siamo sempre lì, cioè tanto a volte ti pescano ubriaco al volante, non è che dico che non succede niente, ci sono inasprite le sanzioni, però più o meno rispetto, non so, all'Inghilterra succede ben poco, allora questo è sempre il problema. Noi abbiamo delle pene sulla carta sempre più alte e delle applicazioni sempre più deboli. Ci sono stati 1 milione di reati prescritti negli ultimi 5 anni e quindi se hai buoni avvocati che ti tirano per le lunghe il processo, comunque ammesso che qualcuno ti mandi sotto processo, la fai franca. E tutto questo si inserisce in uno sfondo che è quello così dell'atteggiamento dei poteri pubblici, che spesso è ambiguo se non schizofrenico. Se prendiamo uno dei corni di questo problema, che è la velocità, che causa più incidenti stradali, devo supporre, di quanti ne causi un bicchiere di vino, in nessuna strada italiana si possono superare i 130 all'ora, solo in alcuni tratti si può viaggiare a 130 all'ora in alcuni tratti autostradali, ma quante macchine invece vengono vendute fanno i 200. Oppure prendiamo la questione dei tabacchi, anche lì castigati dappertutto, ma lo Stato poi ci incassa. Allora ci sarebbe bisogno anche di un po' di coerenza sullo sfondo. La vede una proposta che farà molta strada? Oppure come passati 2 giorni oggi si fa fatica a trovare, se non sul Corriere della Sera, appunto la risposta del sottosegretario Mantovano, per il resto non c'è neanche uno straccio di mezzo titolo su questa cosa delle stragi del sabato sera, pensa che tra una settimana ci saremo dimenticati più o meno tutti? Fino alla prossima strage, perché poi la situazione dei media è sempre un po' nevrotica sull'onda dell'ultima notizia. Va bene, staremo a vedere. Io intanto ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, Carlo Giovanardi, Antonio Flamini, Michele Ainis, Elena Valdini. Come sempre poi quando parliamo di libri, insomma, ricordo il titolo, autrice di Strage Continua, edito da Chiare Lettere. Poi se ci scrivete una mail a vivavoceradio24.it vi scriveremo bene il titolo, se non avete avuto modo di prenderlo bene con la penna e segnarvelo. Ricordo che potete ascoltare tutto, riascoltare tutto sul sito radio24.it, molto semplice, andate nella sezione Viva Voce, potete scriverci anche. Ringraziamenti come sempre a Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Matè in regia, e ci ritroviamo domattina.